Radio Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza. E allora parliamo dello sciopero generale che dei lavoratori del credito, sciopero generale che è iniziato soprattutto perché l'ABI ha disdettato il contratto nazionale, un contratto che sicuramente non era il massimo perché toglieva diritti, abbassava tutele, bloccava gli scatti, introduceva un salario di ingresso ridotto e inoltre sterilizzava numerose voci retributive per quanto riguarda l'accantonamento del TFR, un contratto controverso che è passato nonostante la costituzione di un comitato per il no fra i lavoratori che l'ha visto prevalere in tante assemblee che poi non sono state certificate. E quindi, nonostante questo contratto che dava alle banche degli elementi di flessibilità estremamente ampi, l'ABI ha disdettato questo contratto con 6 mesi di anticipo. L'obiettivo dell'ABI probabilmente, che sarebbe l'associazione dei banchieri, quindi la controparte dei lavoratori del credito, probabilmente l'obiettivo è quello di nuovamente trasferire sul settore del credito il modello Marchionne con contratti di prossimità, ma forse l'obiettivo è anche quello del fondo di solidarietà, un fondo che dal 2000 ha permesso ai lavoratori di uscire, diciamo così, senza traumi dal settore produttivo. Si richiede, l'ABI richiede quasi 70-80 mila esuberi. Allora ne parliamo con Renato Strumia del Salca Cub. Pronto, mi senti? Sì. Bene, sì, allora, buongiorno a tutti. Sì, ciao, che valutazioni dai su questo sciopero? Perché sembra che i lavoratori sostanzialmente siano in mezzo fra, da una parte, l'arroganza dell'ABI, dall'altra dover difendere un contratto che è un contratto sicuramente regressivo rispetto ai diritti e alle tutele. Sì, certamente la disdetta del contratto da parte dell'ABI rientra in una strategia abbastanza complessa in cui le banche stanno cercando di scaricare la crisi sui lavoratori e sul costo del lavoro, ma stanno anche cercando di ottenere dei vantaggi, soprattutto di tipo fiscale, dalle controparti politiche. E infatti è una cosa importante, l'hanno già ottenuta. Come sappiamo, la situazione attuale vede la possibilità per le banche di scaricare fiscalmente le loro perdite su crediti su un arco temporale molto lungo di 18 anni. Chiedevano dal 2008 di abbassare questo periodo a un periodo molto più breve, sono riusciti a ottenere con questa legge di stabilità una riduzione a 5 anni, quindi questa è una cosa che gli porterà dei grossi vantaggi fiscali. Si conteggia che di qui al 2022 riusciranno a risparmiare sulle tasse almeno 20 miliardi di euro, quindi hanno già ottenuto un obiettivo importante attraverso le forme di pressione di ricatto che hanno come dire reso pubbliche con la disdetta del contratto. Adesso hanno altri obiettivi, uno di questi obiettivi per esempio è la rivalutazione delle quote che possiedono di Banca d'Italia. Come sappiamo le banche hanno in carico questa quota a un prezzo risibile, a un prezzo che risale al 1936, equivale agli attuali, agli allora 300 milioni di lire che equivalgono a 156 mila euro. In realtà la Banca d'Italia vale circa 7 miliardi e quindi loro vogliono rivalutare queste quote inserendo in bilancio questo valore, facendolo entrare nel loro patrimonio, e in questo modo riuscirebbero ad aggiustare i bilanci non solo di quest'anno ma mettersi in regola anche per quanto riguarda i controlli sugli stress test e le procedure di verifica dei patrimoni delle banche che varranno anche per Basilea 3. Probabilmente riusciranno a conseguire questo secondo obiettivo entro Natale, quindi è probabile che già entro la fine dell'anno riescano a ottenere questo ulteriore risultato. La terza cosa che presumibilmente si verificherà è un processo di consolidamento e di fusione tra banche che di qui a un anno probabilmente riscriverà il riassetto globale della struttura delle banche italiane. E quindi come quarta cosa viene l'attacco sul costo del lavoro, sulla riduzione dei costi. Il quadro vede una riduzione secca della redditività delle banche, che non è una cosa di momentanea, non è contingente, presumibilmente durerà un bel po' di anni, e quindi le banche vogliono riscrivere totalmente l'impianto contrattuale per riuscire a risparmiare strutturalmente sui costi. La disdetta del contratto significa proprio questo, cioè la volontà di dare una svolta a 180 gradi a quello che è la normativa contrattuale nel settore, e quindi nel documento che hanno steso di ben 18 pagine che supporta in qualche modo la disdetta, le banche hanno fatto l'elenco delle cose che chiedono ai sindacati, ai lavoratori, e sono cose decisamente pesanti. Sicuramente il punto di partenza è una riscrittura del meccanismo di ammortizzatore sociale presente nel settore, che è un fondo di sostegno al reddito che consentiva ai lavoratori di andare via fino a 5 anni di anticipo, con un sussidio che in qualche modo era paragonabile a quella che era una forma di pensione per l'età maturata, e quindi era tutto sommato una forma di uscita morbida, possiamo considerarla. In più era supportata spesso da incentivi economici per far accettare ai lavoratori questa fuoriuscita anticipata dal rapporto di lavoro. Le banche vogliono riscrivere questa norma in modo che sia molto meno costosa, partendo dal presupposto che la legge Fornero prevede un allungamento di molti anni di quella che è la vita lavorativa, e quindi sostengono che le banche non sono in grado di sostenere questo onere così elevato, e quindi propongono di usare un fondo di sostegno al reddito che abbia sostanzialmente degli importi da erogare molto molto più bassi, in qualche modo paragonabile a quella che è l'indennità di mobilità vigente negli altri settori, che come sappiamo ha dei massimali molto molto più bassi, si arriva a 1.153 euro come forma di sostegno massima, e quindi da questo punto di vista per i lavoratori bancari vorrebbe dire perdere un 50%, non dico un 50 ma almeno un 40% di quello che mediamente percepiscono tuttora, e quindi questo è il primo scoglio importante da superare se si vuole in qualche modo sbloccare la situazione. Il fondo di sostegno al reddito deve essere convertito in un ente bilaterale entro la fine dell'anno, e quindi avevano tempo fino al 31 ottobre, quindi fino ad oggi, per trovare un accordo di settore che poi avrebbe dovuto essere recepito in un decreto ministeriale. Sì, questo non è stato fatto, e questa è una delle cose che hanno portato poi allo sciopero e alla rottura. C'è anche il discorso della gestione delle banche, del sistema, e del ruolo che il sistema finanziario in questo momento di crisi sta assumendo nel nostro paese. Si parla di 140 miliardi sostanzialmente di crediti inesigibili, di cui il 90% sono stati deliberati dalle direzioni centrali o dai consigli di amministrazione, e quindi soldi agli amici degli amici, come d'altra parte dimostrano anche i casi eclatanti di Zaleski con Banca Intesa. E queste perdite, che sono ormai irrecuperabili, le banche evidentemente le vogliono far pagare ai lavoratori, come vogliono far pagare ai lavoratori i costi dell'adeguamento a Basilea 3. Sì, in effetti i dati strutturali dei flussi di risparmio di impieghi denunciano proprio questo. Le banche hanno sostanzialmente chiuso i rubinetti all'economia molto ritardo, no? Rispetto a quello che si poteva pensare dal punto di vista dell'allocazione prudenziale delle risorse. Basti pensare che dal 2011 a oggi sono venuti a mancare circa 70 miliardi di crediti all'economia, quindi una riduzione dell'8% degli impieghi. Questo naturalmente non ha sanato la situazione pregressa, perché molti di questi impieghi erano stati erogati negli anni precedenti sulla base di criteri familistici, no? Molto spesso comunque senza nessuna considerazione di quelli che potevano essere impieghi produttivi che fossero in grado di finanziare quei settori che avevano non soltanto capacità di solvibilità ma anche capacità di produrre sviluppo, aumento della competizione, svecchiamento della struttura produttiva, investimenti nuovi e così via. E quindi di fatto ci troviamo con un conto economico delle banche che da 5 anni a questa parte deve continuamente finanziare i crediti incagliati. Se noi andiamo a vedere dal 2007 ad oggi, dai 5 miliardi annui che venivano accantonati per crediti inesigibili si è saliti praticamente a 30 miliardi, quindi vuol dire che è aumentata di 6 volte la quota del conto economico che deve andare a a ripianare i crediti perduti, e questo significa che tutto quello che si è risparmiato sul costo del lavoro in questi anni è servito semplicemente a sanare delle situazioni di incaglio pregresse dovute a quei criteri che abbiamo descritto. Bene, senti Renato, dopo questo sciopero quali sono le prospettive? Nel senso che appunto c'è il rischio che i lavoratori, aderendo come probabilmente sarà massicciamente a questo sciopero, anche perché l'arroganza dell'ABI, diciamo così, è veramente insostenibile, rischiano di firmare una cambiale in bianco ai sindacati che hanno firmato questo contratto per poi appunto rifirmare un altro contratto sotto dittatura dell'ABI o andare poi a ricontrattare l'ente bilaterale che sarà in cui si trasformerà il fondo. In fin dei conti forse le vicende dello sciopero dimostrano anche il fallimento del sindacato concertativo nel settore dei lavoratori del credito. Ma sicuramente la concertazione ha portato a questo risultato, una passività di lavoratori. Teniamo presente che erano 13 anni che non veniva indetto uno sciopero a livello nazionale di categoria su vicende legate alla contrattazione nazionale. Quindi di fatto il rischio di vedere in qualche modo consegnata il governo di questo processo a dei sindacati inaffidabili esiste. Noi ovviamente abbiamo cercato di prevenire, no? Di contrastare questa cosa, anche perché a differenza di un anno e mezzo fa, quando siamo intervenuti a fronte di un contratto già firmato, questa volta abbiamo un po' più di tempo davanti, quindi dobbiamo cercare di sfruttarlo bene. La piattaforma deve essere ancora costruita, teniamo presente che il contratto scade formalmente il 30 giugno del 2014 e quindi dobbiamo ancora fare una tornata assembleare in cui verranno discusse le linee guida della piattaforma. Noi come Comitato per il No cercheremo di usare questo tempo per chiedere a chi predispone la piattaforma, quindi ai sindacati trattanti, il rispetto di alcune richieste che vengono dalla base. Quindi siamo impegnati per studiare, per costruire dal basso le linee guida di una piattaforma su cui poi chiederemo alle segreterie dei sindacati di fare i conti e di regolarsi su questo. E questo ci consente di sviluppare un dibattito di massa in categoria che in qualche modo dovrebbe provare a impedire che poi la chiusura della vicenda avvenga sulla nostra pelle, sulle nostre spalle. Bene, Renato. Tutto da dimostrare se questo, certo, riusciremo a farlo, però abbiamo il tempo e le risorse per impegnarsi seriamente su questo terreno. Bene, ti ringrazio dell'intervento e ci sentiamo presto. Molto bene. Ciao, ciao a tutti.